America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Detroit. Mario Platero, sono nella capitale dell'auto americana. Perché? Beh, perché questa mattina ci sarà l'annuncio del grande piano quinquennale, il primo dopo la fusione tra Fiat e Chrysler, non ancora, diciamo, formalizzata sul piano giuridico, ma sicuramente formalizzata sul piano del business. Detroit made cars and cars made America. Making the best, making the finest takes conviction. L'avrete riconosciuto, Bob Dylan. Bob Dylan non in concerto, ma per Detroit, soprattutto per la Chrysler. Per la Chrysler 200 è stato l'ultimo colpaccio della grande casa automobilistica di Detroit, guidata da Sergio Marchionne, ormai in area di fusione ufficiale con la Fiat, e quindi col nome Fiat Chrysler Automobile. Non è ancora stata approvata dal punto di vista formale e giuridico, ma è questione di settimane, è questione di mesi. We wait until they get sleepy. Wait until they get so big they can barely move. Then we walk out of the shadows. Quietly walk out of the dark. And strike. Maserati, ecco, c'è stato al Super Bowl il debutto della Maserati. Ora, la Maserati resterà tecnicamente fuori, da quel che mi è sembrato di capire, dal corporate logo Fiat Chrysler Automobile. La Maserati, l'Alfa Romeo e la Ferrari resteranno come delle società separate. Però c'è stato un debutto in qualche modo di una controllata della casa italiana, e dunque la Fiat in qualche modo è entrata nel Super Bowl. Sul piano simbolico si anticipava quello che vedremo oggi con l'avvio della grande giornata in cui Sergio Marchionne e i vertici della Chrysler e della Fiat illustreranno il piano quinquennale in cui le due società procederanno a questo punto formalmente insieme, non soltanto dal punto di vista di una copartecipazione azionaria, ma da un punto di vista di fusione societaria di un'unica società. Ecco, questa operazione in Italia ha destato non poche proteste. Invece di generare, come dire, delle parole di apprezzamento, di elogio, perché diciamolo, la Fiat avrebbe avuto grandi difficoltà a sopravvivere se non fosse riuscita a fare questo accordo con la Chrysler, c'è sempre un po' il sospetto per il fatto che un'azienda italiana stringa un'alleanza all'estero. E allora io di questo voglio parlare, di come si è arrivati a questa giornata straordinaria, che è straordinaria per la storia italiana. Ne voglio parlare con Giorgio Barba Navaretti, è professore di economia internazionale alla Statale di Milano, che con Gianmarco Ottaviano, un altro professore di economia alla London School of Economics a Londra, ma anche a Bologna, ecco, insieme hanno scritto un libro, Made in Torino, Fiat Chrysler Automobile e il futuro dell'industria. Buongiorno Barba Navaretti. Eccoci qua, buongiorno. Allora, perché la Fiat è riuscita laddove altri hanno fallito? Perché sono riusciti a mettere in atto una strategia industriale di integrazione profonda sin dall'inizio, che aveva come obiettivo quello di aumentare quanto più possibile la scala di produzione con una forte presenza anche sul mercato americano. Chrysler più Fiat insieme raggiungono oggi 4 milioni circa di automobili prodotte, mentre prima erano circa 2 milioni, 2 milioni e mezzo ciascuno, perché hanno potuto mettere insieme, creando delle forti sinergie, delle tecnologie completamente diverse. La Chrysler era specializzata nella produzione di motori di larga cilindrata in automobili molto grandi per il mercato americano. Fiat invece era, come sappiamo, specializzata nella produzione di veicoli di massa, piccoli motori, eccetera. Quindi in qualche modo c'è stata un'integrazione con una forte unione delle tecnologie che ha permesso in qualche modo dei fortissimi risparmi di costi e una riorganizzazione profonda dell'attività industriale, che sicuramente oggi è già molto in atto e che in precedenza non era riuscita ad altri produttori, tipo appunto la magica Daimler, che in qualche modo, integrandosi con la Chrysler, non era riuscita ad ottenere le stesse sinergie, perché la Mercedes non era disposta a condividere le tecnologie e un piano di integrazione industriale così spinto come in realtà ha fatto la Fiat. Ecco, il primo capitolo si è chiuso, 5 anni per rimettere le cose a posto. E adesso? Ora è il futuro, la ripresa dell'Europa e la capacità di passare da una produzione generalista a bassi margini, a basso valore aggiunto, verso una produzione di alta qualità, ad alto valore aggiunto, ad alti margini. Questa è la strategia fondamentale. Lei è economista internazionale, l'Europa ce la farà a riprendersi e quindi a consentire di chiudere questo secondo ciclo? Beh, sicuramente l'Europa si riprenderà e questo io penso che la crescita europea si sta consolidando e si consoliderà ancora di più. La cosa fondamentale però è che non basta la crescita, ma dipende anche che cosa produci, e quindi la transizione verso attività ad alto valore aggiunto, come si cerca di fare grazie all'integrazione americana anche in Europa, è un passaggio fondamentale per ridare futuro all'industria. Ecco, il quadro mi sembra chiaro, il matrimonio Stati Uniti-Italia, dimentichiamo Fiat Chrysler, è stato vantaggioso, positivo per entrambi, eppure in Italia c'è chi continua a lamentarsi, dice sono fughe di risorse all'estero e così via. Ma quando ci leveremo il paraocchi? Beh, il paraocchi richiede un cambiamento di cultura, nel senso che non possiamo più ragionare in termini di aziende italiane, ma dobbiamo ragionare per molte grandi imprese in termini di aziende globali, che quindi se operano in Italia devono poterlo fare a condizioni competitive, devono poter stare sul mercato italiano per poter vendere in tutto il mondo. Questa è la chiave fondamentale, e questo a volte richiede, appunto, come è successo nel caso della Fiat, una forte integrazione con attività internazionali, una evoluzione delle tecnologie, una riorganizzazione delle fabbriche per ridurre l'intensità del costo del lavoro, quindi una serie di investimenti che rendono delle imprese che fino ad oggi sono vissute, se vogliamo, nel brodo di cultura italiano, delle imprese che in qualche modo adottano una prospettiva globale. Scusi, lei è preoccupato dal fatto che anche in ambienti intellettuali che dovrebbero capire i fatti del mondo ci sono delle resistenze a questa evoluzione? Cioè la Fiat sta facendo da apripista, in fondo ha una cosa inevitabile, perché se l'Italia vuole restare protagonista a livello internazionale globale dovrà espandersi. Perché c'è questa resistenza? Per due ragioni. Primo, perché l'Italia è un paese che non cresce, e in un paese che non cresce la gente è sempre molto più preoccupata a lasciare andare e a perdere dei vantaggi o dei benefici di cui comunque dispone. E secondo, proprio perché è un paese che in qualche modo, avendo protetto per molto tempo un modo di lavorare, un modo di operare che funziona soltanto in Italia, ha paura di perdere il proprio futuro in qualche modo, e non capisce che il futuro è semplicemente sarà legato ad un cambiamento radicale nel modo di operare e di esistere. In effetti, da questo punto di vista, credo che se la scommessa della Fiat sul futuro avrà successo, questo avrà un impatto molto importante anche per il futuro industriale ed economico europeo. Siamo di fronte a una sfida in qualche modo culturale di trasformazione dell'economia del nostro paese. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di un'unione che ha dato un primo risultato e che adesso si prepara a darne un altro. Dunque, simbolicamente, dei Beatles vi propongo Come Together. Production. Da Detroit è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.